giornata sfortunata in delle fasce, eppure la barbuscia me lo disse, eppure la barbuscia me lo disse, è che era un'altra femmina che nasce, e invece andata donna. E me ne vanto, e me ne voglio andar lontano tanto, e me ne voglio andar lontano tanto, a dove non m'arriva manco lo vento. Noi siamo donne, sì, noi siamo donne, noi siamo donne, sì, e non tremiamo, e lo spadino in testa la tenemmo, per cortelluccio per perserci un mano, e chi fa male donne, sì, noi siamo donne, noi siamo donne, sì, e non tremiamo. Grazie ragazzi. Caldo, è bello, eh? Allora adesso per gli amici della radio default, il stornello dell'affitto. Meglio buttarsi a fiume tra l'alla che fa sta vita qua, meglio buttarsi a fiume tra l'alla che Anna a lavora. Bella Roma, per chi lascia i soldi, padroni di casa, sempre più ingordi, fammi buffi con carta girone, per potesse pagare la pigione, siamo sfruttati, accatastati, compressi stressati, sottopagati, i tempi di mio nonno, me sa che so tornati. Ma almeno mio nonno c'aveva l'osteria, se beveva una foglietta il dolore andava via, i sordi non ce l'aveva ma stava in compagnia, dopo per San Vittorio poi c'aveva un talento, quando che il vino era buono si suonava cor contento. Meglio buttarsi a fiume tra l'alla che fa sta vita qua, meglio buttarsi a fiume tra l'alla che Anna lavora. Una canzone piena di allegria. E sempre a raffica, mazza, tosta così, mazza che pubblico esigente, guarda lì. Ok. Questo brano si chiama Arrivano le donnette, il primo pezzo l'ho scritto io e il restante pezzo, appunto, come quelli di Radio Default già suonano, il laboratorio di canto con cui ho fatto questo brano. A arrivano le donnette che sono sempre perfette, s'attaccano ad un uomo come fossero cagnette, non hanno un'intenzione, non hanno un interesse, sono spesso e volentieri puliti che represse. Ma che liberazione, ma che rivoluzione, ballerini di fila che aspetta l'audizione, il sesso imprigionato del libero mercato, ogni corpo un attacco e vivi a misurare. È primavera, ma insomma ragazzette, da mese da faccia avevamo culo dette e testa per pensare che puro i difetti so da valorizzare, altro che quelle della pubblicità, ci faceva l'amore e puro da mangiare, altro che preti, mariti e santità, volemo una vita di curiosità, questa è la strada e la libertà. Yeah, che bello, ragazzi. C'è una cosa che non c'entra niente, però mi piace a me. Se lo fa, vabbè, ok. Sempre perché c'è un repertorio molto omogeneo, compatto, che si capisce subito quello che faccio. Faccio quella, un'altra cosa non c'entra una mazza. Forse per Only for Sabrina, se ce la faccio, se mi ricordo, almeno la prima strofa di estate, no? Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena d'un amore mai passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. L'estate, la B purtroppo si era dispersa. A questo punto sempre rimango un po' su brasiliano, che insomma c'è un po' un problema. C'è il mio cavallo, perché sì. È la minore, come tutta la vita mia, la minore. Ma mia, sorriso as tuas mãos. Pois já te até um dia ai, aquele terra da escada do meu violão. Quem sabe teu amor procurou, nem barrava e já fala do peito. Perdidos nos lábios teus. Tia da vada da vada pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sempre perché così con il repertorio omogeneo. Dimmi bel giovane onesto e biondo, dimmi la patria tua quale. degenerare violentemente, eh? Degenerare violentemente fin da subito. Che volete? Una cosa allegra, triste, mezza mezza? No, non avete. Ok, non avete preferenze, vado. E allora vi beccate un altro pezzo, un altro canto anarchico dell'Ottocento. La Marsigliese del lavoro, sì. Triste spettacolo le nostre donne, per noi primizie non andamor, ancora in puberi sciolte le gonne, si danno in braccio a lor signor. Sono nostre figlie le prostitute che muoiono tisiche negli ospedali. Le disgraziate si son vendute per una cena o per un gremial. Pur natura tutti uguali, non v'è diritti sulla terra. Noi facciamo aspra guerra ai ladroni e agli oppressori. Gli accordi, questo optional degli accordi. E quindi adesso ci dirigiamo, però c'è un microfono che fischia in mezzo a me, forse è quello della chitarra sta che rompe un po', fischia, vabbè. Così perdo tempo, tanto penso che devo fare quello che voglio io. Davvero. Allora vi faccio sentire un pezzo mio nuovo che non ha le parole, però la melodia è molto bella, quindi faccio un primo test e mi dite che ne pensate. Ok, va bene. Invece è un po' così, un po' così, direi quasi pop, mi è uscita una volta un pezzo quasi pop, quasi a pestornelli, ma una volta un pezzo pop è avvenuto così. Un amore immaginato che d'argento io ho vestito, quando poi lo abbiamo vissuto, cose che spezza il fiato e il cuore. E milioni di parole, una lotta muscolare, la passione incendia e porta con sé comprensione. Sul tuo letto io son volata, la mia fine era annunciata di quel fuoco enorme che avvampata, ma resta la cenere. Un amore immaginato, un'angoscia buon mercato, quanto vino te cannata con te, dimenticando E adesso invece basta con queste cose, con questi accordi di sesta, fanno una cosa più trucid, tipo un gabriellone, una cosa così, insomma, un gabriellone. Chi non canta con me è Pestro Culio. Sempre la minore, perché sì, perché è giusto. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vai, vai, vai, comincia tu. Prego, signora, tante cortellate, e quante messe a te l'arciprete. E quante messe ha dette l'arciprete, e quante volte ha detto rade frate, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Io so tre steverina e lo sapete, non serve bello mio che ce rugate, non serve bello mio che ce rugate, so cortellate quante ne volete, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il bene che te do, io nu lo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, con la faccia mozzata Peppa Nico. Stornello dell'estate. Anticlericale, allora c'è, ma c'è 4x4, 2x2. E allora sì, per forza. Gira e mai la sbaglia, e ti voglio anarchisti. questo dad to papaccio Voitila, dad to you. E vabbè, c'è un'altra richiesta speciale? Ok, vai. Allora. Nel fosco fin del secolo morente, tra mille, non è questo? No, allora scusa, ho sbagliato. Ok, ok, scusa. E di morire nel fango della via, imiteremo Brasciera Vachol, chi tende a te la mano borghesia è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilariano i pezzenti e pallide e piangenti san le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai terolti tra omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, si appresti le bombe, si affili il pugnale, è l'azione l'ideal. Ta-na-nan, ta-na-na. Altre richieste, politico? Posso fare una canzone sulle... però è veramente una tristezza mortale, magari me lo evito, no, ce lo evito, una cosa gioiosa. Ok, ok, ok, brave, ok. A sto punto, visto che ieri era 25 aprile, devo fare una canzone invece per Cesarina. A morte la casa Savoia, lordata in un'onta di sangue, si desta il popolo che langue, si desta il popolo che langue, o ladri del nostro sudore, faremo nel mondo siamo tutti fratelli. Giunta è la fin. Evviva il compagno Stalin, non lo dico. Diceva, mia nonna lo diceva, purtroppo è così, faccio outing. Avevo una nonna stalinista, è vero. Viva il Soviet, viva Stalin, diceva delle cose veramente irripetibili. Sì, l'ho detto. Vabbè, sì, ferite però. Vabbè. E un'altra canzone facciamo. Facciamo questa, aspetta. Va bene. Io dice da nozzelletta. Ragazzo sull'ordinario con un certo non so che se lavava assai da fretta da cui è il soprannome, ma una sera sul portone lui mi disse via con me fra l'ortica e tra le more dal monte de testaccio. Una spinta e con un abbraccio tutto quanto mi insegnò. Io avevo 15 anni, lui su per giù lo stesso, per 3 giorni mi stette appresso, poi mio padre lo schiamò. Zelletta, zelletta, che mo chissà dove stai, dietro di quella fratta io da mai. A quella ragazzetta che mo chissà dove state, ieri vasti la verginità. E mi padre va ricordo quanto mi fece core, con gli strilli e col tortore, tutta quanta me meno. Brutta figlia della vergogna, mia cuoca. Straccio, ti sei messa con quel scioccio, ti dovresti dalla mano. più pulito. Nella cella. Va, quanto, no, che ore sono? Facciamo. Vado. Che domani è domenica. Vabbè. Allora, facciamo un'altra cosa di queste. Sempre il repertorio Follia, che sto fa tutti i pezzi che mi ricordo con la chitarra, ragazzi, ve lo dico palesemente. È così. Nella ete i pastara urria da vantare chi ha nella ete i pastara su testi piede ma si rusa pisa vostra zia urmadu curre faccio pure un altro pezzo brasiliano, me lo ricordo anche lui. Allora, quem acreditou no amor, no sorriso e a flor, então todo encontrou. Non è vero, non mi ricordo. Bu per Marta che non si ricorda le canzoni. Bu. Cioè, non si può. È Stalin. L'ho nominato e subito c'è stata una ripercussione negativa nella mia vita. Cioè, mi pare evidente. Sei il karma. E allora, vabbè, ci riproviamo con un altro problema brasiliano che forse mi ricordo. Ma forse c'ho anche lo sport. Attenzione a questo momento. Vai minha tristeza e ti ao eu aqui sem ela não pode ser. Coisa louca, coisa. signo, sana danna va. Lo scatte signo che va che na sua bocca. Vento to, meus braços so, un abraço sa. Disse-me hoje abraço sa. Questo forse? Sì. Ci vedo. Trasporto, scusate. Standardone che di questi degli unici sport che ho. Facciamo questa, va, che sembra più semplice, guarda, ve lo dico. I remember you, you're the one who made my dream come true. It's true, minutes ago. I remember you, you're the one who said I love you too. I do, isn't you know? I remember through our distant days. remember you. You're the one who said that about you. As you, jibidi. I remember to at this time of light that spell like rain out of the blue. When my heart is through and the angel asks me to recall the thrill of that old love, then I will tell them I remember you. Ah, scusate, mi sono scordata il pezzo, va, poi con questa me ne vado, giustamente, basta, no? No, ancora, va. Ok, il prossimo pezzo si chiama I Pampentiso. È uno stornello di aria senese. E chiaramente è in la minore. Quando ero ragazzina innamorata, portavo il cappellino a mezza fronte, andavo ben vestita e pettinata, le scarpe le logravo nelle fonte. Ora che l'ho passati lì 30 anni, le logro nelle fonte, nei calcagni. Ora che l'ho passati lì 20 anni, le logro nelle fonte, nei calcagni. E dammelo un bacin d'amore, in cambio te ne rendo 3. E dammelo un bacin d'amore, chi in cambio te ne rendo 3. Giovinottina che figli marito, se tu lo figli te ne pentirai, ti toccherà mangiare il pan pentito e tutti i sonni non li dormirai. E quando vorrà andare dalla mamma ti toccherà cantare la ninna nanna, quando dalla tua mamma vorrà andare la ninna nanna toccherà cantare. E dammelo un bacin d'amore, chi in cambio te ne rendo 3. E dammelo un bacin d'amore, chi in cambio te ne rendo 3. Quante son le canzoni e canzoncelle, la famiola me le fa scordare, a chi porta le scarpe, a chi pianelle, a mezzanotte mi chiedano il pane, alla più grande glielo vorrei dare, lei nulla vuole mi fa disperare, alla più grande glielo vorrei dare, lei nulla vuole mi fa disperare. E dammelo un bacin d'amore, in cambio te ne rendo 3. E dammelo un bacin d'amore, in cambio te ne rendo 3. Grazie a tutti. I fagioletti, va bene, ok, i fagioletti, vai, vai, dai le fagioletti, un po' basta. Perché qua sotto, vi giuro, effetto sauna. È bello, molto bello. Me ne vuoi capire un attimo? Eh? Sì, davvero, molto. Ecco qua. Voglio cantare così. Yeah. fare all'amore. Si fosse maladia fare l'amore, sarebbe il mondo tutto l'ospedale, sarebbe il mondo tutto l'ospedale. Quando l'amore brizzica gira che va gira, e quando che te stuzzica la vera se ne va. Quando l'amore brizzica gira che va gira, ma quando che te stuzzica l'amore se dà. Grazie a tutte, grazie. A tutta asterisco, grazie.